Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Non riesco a trovare parole che possano descriverli, anche se sono convinto che hanno poco o nulla di sentimenti umani, essendo atteggiamenti e azioni più simili a bestie che a uomini. Mi auguro soltanto che non stiano mescolati tra di noi. Il vento sul porto di Acciaroli diffonde l'anatema del vescovo tra le stradine di questo borgo di pescatori. Bestie li chiama Monsignor Rocco Favale, i killer o più che hanno ucciso Angelo Vassallo, il sindaco di questo paese nel Cilento. Ucciso forse per un no alle ambizioni della camorra che ha poi ordinato il suo delitto. A meno di una settimana lo scenario sembra questo, mentre l'inchiesta viene affidata alla direzione distrettuale antimafia di Salerno. Il profilo di Vassallo, 56 anni, al suo secondo mandato, guarda da una gigantografia sulla torre del porto le migliaia di persone arrivate per dare l'ultimo saluto al sindaco pescatore. E ripercorrendo la sua storia, il vescovo di Vallo della Lucania sprona tutti a non cedere ai soldi facili. Soldi che negli ultimi tempi, insieme al turismo, sono arrivati anche in questa estrema punta della Campania. Soldi come quelli degli appalti per il porto o come i tanti che ruotano intorno alle costruzioni, a cui invece l'amministrazione Vassallo aveva messo un rigido stop con un piano regolatore molto severo. È per questo che è stato ucciso? A meno di una settimana dal delitto, tante ipotesi e tracce. Eccole. Quando fu eletto sindaco, volle verificare se anche tutta la gente del suo paese fosse pulita come il mare e per farlo Angelo Vassallo aveva voluto scoprire quanti e quali fossero gli eventuali legami delle famiglie con il carcere. Anche per questo, a lungo, Pollica e la sua frazione più ricca, Acciaroli, è continuata a essere un borgo dove le porte delle case hanno le chiavi fuori. Ma il sindaco pescatore sapeva benissimo che, come con le reti a strascico, così con l'esplosione del turismo, nelle 30.000 presenze estive poteva finirci di tutto e facce poco raccomandabili le aveva viste anche quest'estate di fronte a quel porto diventato polo di investimenti miliardari, e in prima persona, come sempre, le aveva segnalate ai gestori di ristoranti e bar, chiamando in causa pure le forze dell'ordine. Ed è ora lì, su quel lungomare di locali e barche, che gli investigatori cercano il possibile perché di un delitto in una zona finora incontaminata dalla malavita organizzata, ed è lì che guarda anche il suo vice Stefano Pisani. Questa è sicuramente una possibilità, potrebbe determinare sicuramente una possibilità. Si preoccupava in prima linea di andare dai gestori a vedere quali erano le frequentazioni dei locali, a consigliare ed eventualmente a richiamare i gestori per dirgli: guardate, forse state esagerando. L'ho fatto anche di recente su tutti i lounge bar del porto. Aveva visto facce che non gli convincevano. Quest'estate c'è stato un po' di movimento in più, ma lui aveva percepito un qualcosa che non andava. Si è premurato a fine agosto con i vigili di fare un giro per tutti i locali e dire a tutti di stare un po' più attenti. C'era stato qualche allarme droga e c'erano stati dei problemi percepiti anche dai familiari, che Vassallo preservava però dalle sue preoccupazioni, ma sapevano di lettere di denunce inviate dal sindaco ai carabinieri e rimaste senza risposta. Temeva ci potessero essere forze dell'ordine in combutta con personaggi poco raccomandabili, rivela il fratello Claudio, e la famiglia tutta ora dice: lo hanno lasciato solo. Le cognate. È giusto anche che voi sappiate, è giusto anche questo, perché il mondo ha da sapere tutto questo. Avevate notizie di qualche minaccia, ad esempio? No, quale minaccia? Questo è un paese, Acciaroli, il paese più tranquillo del mondo. Lui ha fatto tanto per Acciaroli, ha fatto tanto per avere anche i riconoscimenti per il territorio. Basta guardarci intorno. Acciaroli è il comune di Pollica. Prima di fare il sindaco, anche lui aveva lavorato insieme a suo marito. Pescatore, per una vita. E poi ha deciso di mettersi in politica. Poi purtroppo gli piaceva. Era meglio faceva il pescatore. I problemi, il sindaco pescatore era abituato a scrutarli all'orizzonte prima che sbarcassero a riva. Per questo, un paio d'anni fa, si era esposto direttamente per non far approdare nel porto un volto poco raccomandabile proveniente dal casertano, feudo casalese. E anche a questo ora ripensa il suo più stretto collaboratore, Pisani. Per scongiurare questa cosa della camorra, siamo stati sempre molto attenti. Abbiamo un afflusso di imbarcazioni da diporto notevolissimo durante l'estate, anche imbarcazioni di un certo rilievo. Cerchiamo subito di capire chi è la persona che sta entrando in porto, perché qualora la persona che sta entrando in porto non è una persona raccomandabile, noi cerchiamo di, con grande cortesia, però cerchiamo di non noleggiarla nel nostro porto, perché proprio vogliamo evitare che loro conoscano la nostra realtà, proprio per suscitare interessi che ci potrebbero essere. Dei rifiuti per le barche? In passato c'è stata qualche cosa del genere, abbiamo chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, abbiamo chiesto il sequestro di imbarcazioni. C'era una persona che frequentava il nostro porto che non era particolarmente raccomandabile. Ovviamente noi per norma dobbiamo ospitare tutti in porto, non possiamo rifiutare l'attracco a nessuno, però provvediamo di conseguenza. Sembra essere tutta lì la risposta ai tanti dubbi che ora assillano a Ciaroli davanti alla vecchia torre d'avvistamento del porto che serviva a notare l'arrivo dei saraceni e dove ora ci sono solo yacht di lusso in attesa che si completino anche i previsti investimenti milionari. Il Comune di Poli ha approvato un piano regolatore nel 2005, estremamente restrittivo. Oltretutto poi il piano del parco è entrato in vigore il 14 giugno. Angelo Vassallo, per cercare di tutelare il suo territorio, è stato l'unico sindaco che ha chiesto al parco di ridurre l'area edificatoria nel proprio comune anziché chiedere di aumentare l'area edificatoria. Vi erano arrivati segnali di malcontenti anche al di fuori della comunità locale rispetto a questa posizione così ferma nel rispetto dell'ambiente? Ci sono stati anche dei malcontenti, ma sempre molto, molto relativi, perché diciamo la fermezza con la quale si dice no alle speculazioni edilizie da noi è totale. Addirittura noi cerchiamo di tutelare il nostro territorio anche per l'edificazione agricola, badando bene che non ci fosse speculazione. Un posto che diventa a un certo punto grande attrazione turistica inevitabilmente sì. Porta con sé le strutture ricettive, no? Ad esempio, avete fermato qualche progetto di espansione, di creazione di un porto, di un villaggio turistico? No, guardi, non c'è nemmeno la possibilità di presentarli i progetti. Se ne è parlato come se ne parla al bar, sai, c'è qualcuno che vorrebbe, ma sono cose veramente lontane da circostanze che possono determinare delle conseguenze come quelle che ci sono state per Angelo. E sul porto invece? Noi stiamo realizzando un lotto di completamento per un valore di lavori di circa 4 milioni e mezzo di euro. Nel massimo della trasparenza, guardi, il nostro sindaco ci ha sempre detto una cosa: quando ci sono le gare d'appalto non aprite nemmeno la porta dell'ufficio tecnico, perché non si deve assolutamente interferire. Gli affari per il porto, i no detti contro l'abusivismo edilizio. Anche le storie degli altri amministratori locali uccisi dalla malavita sembrano confermare come le cosche continuino a rispettare sempre le solite leggi, eliminare i simboli di legalità. Ne è sicuro Alfredo Greco, PM di Vallo della Lucania, titolare delle indagini. Hanno ucciso un uomo che sicuramente si è messo davanti a un'attività illegale. Manteneva, da quello che sappiamo, la legalità negli appalti e nelle attività economiche. Opinione condivisa anche da Raffaele Marino, procuratore capo di Torre Annunziata e suo amico. La prima impressione è che si tratti di un agguato di matrice probabilmente camorristica, perché le modalità dell'esecuzione, il fatto che la vittima sia stata probabilmente seguita, pedinata, indicano una premeditazione, il numero dei colpi sparati. Peraltro da due armi diverse, quindi probabilmente due killer, sono tutti elementi che riconducono a una matrice camorristica. Nel Cilento, a mia memoria, no? Episodi del genere non se ne sono mai verificati, quindi sicuramente non è un fatto locale, insomma. Quindi un delitto voluto non nella zona ma casomai nel napoletano? Nel napoletano, nel casertano. Ecco, procuratore, lei a Napoli, poi ora a Torre Annunziata, insomma, ha alle spalle tanti anni di lotta contro la camorra, per cui la conosce bene, ma conosce anche quella zona, che appunto non è una zona, almeno fino adesso non è mai stata una zona attraversata da, diciamo, faide, lotte camorristiche. Che tipo di interessi, secondo lei, potrebbero esserci intorno a Pollica, ad Acciaroli, diventato un polo turistico importante, da aver dato eventualmente fastidio a qualcuno? Acciaroli e Pollica sono diventati un polo turistico importante, sono poi il traino di tutto di tutta la zona del Cilento. C'è uno sviluppo in atto molto forte, quindi ci sono soldi che girano, e dove girano i soldi arriva la camorra, naturalmente. C'erano lavori importanti da fare in quella zona, sia sul porto, c'era uno sviluppo alberghiero molto forte, molto interessato, diciamo, quindi è probabile che Angelo Vassallo abbia detto dei no a persone che poi si sono vendicate, insomma. Il settore del turismo, lei pensa? Io penso al settore del turismo e al settore degli appalti. Quindi tentativi di infiltrazioni a cui il sindaco si sarebbe opposto? Sì. Per i suoi no, Acciaroli e la zona con le sue bandiere blu è diventata la perla del turismo di questa estrema punta della Campania, come conferma anche Michele Buonomo, presidente di Legambiente Campano, che aveva un rapporto stretto con Vassallo. Angelo è stato l'unico, che io sappia, sindaco della Campania ad aver adottato un nuovo criterio, quello di puntare decisamente sulla ristrutturazione, sulla riqualificazione. Questo era l'obiettivo di lunga durata del comune di Pollica, non si contano abusi edilizi, a differenza di quello che avviene in gran parte della regione Campania, che annovera 6.000 abusi edilizi consistenti ogni anno. Capitolo raccolta differenziata. Livelli encomiabili, altissimi di raccolta differenziata, grazie semplicemente alla volontà di farlo. L'esplosione del turismo si era avuta sotto i due mandati di Vassallo, ma Acciaroli era rimasta però ancora quel borgo di pescatori legato al proprio mare e alle proprie pietre, che aveva incantato anche Hemingway, che qui rimase a lungo, tanto da far diffondere nel paese la leggenda che qui lo scrittore ebbe a scrivere Il vecchio e il mare. E ora la gente ha paura che quest'ombra della camorra possa sporcare la limpidità di quest'oasi felice. Storielle. Storiacce. Noi siamo una delle poche realtà in Italia che arricchiamo lo Stato, perché noi investiamo, facciamo, costruiamo questo porto, ci indebitiamo per costruire questo bellissimo porto, alla fine proprietario lo Stato. Ma noi siamo leghisti, noi. Davanti al suo porto, Angelo Vassallo guardava le barche ormeggiate e si compiaceva in questa intervista del boom del turismo della sua Acciaroli, la frazione più ricca di Pollica, nel Cilento. Lui che l'aveva favorito questo turismo e sostenuto in prima persona, affondando le mani direttamente nei problemi, l'ultimo quest'estate con degli spacciatori, proprio come faceva nelle onde del mare per raccogliere qualche eventuale rifiuto. Era uno che si esponeva direttamente, Vassallo, e anche per questo il suo delitto sembra aver spalancato in modo ancor più drammatico una questione: l'esposizione dei sindaci davanti alle pressioni della malavita organizzata, la loro faccia, i loro rischi, la loro solitudine, come denunciano i familiari di Vassallo. Di sicuro, secondo Raffaele Cantone, magistrato di Cassazione e a lungo in prima linea contro la camorra che l'ha più volte minacciato, i pericoli per i piccoli amministratori possono aumentare con il federalismo, dice. I sindaci in alcune zone possono aver paura per dei no pronunciati. Io credo di sì, io credo che questo rischio ci sia, cioè nel senso che soprattutto in zone nelle quali c'è un grosso interesse economico, la criminalità può farsi presente. Nel momento in cui si fa presente, il no può diventare un elemento essenziale. Ma a questo punto, nel momento in cui i sindaci di centri più o meno importanti, Acciaroli è diventata il punto di riferimento del turismo di questa zona anche abbastanza ampia della Campania, nel momento in cui gli interessi economici e anche i centri di spesa ricadono sempre più in modo più forte sugli amministratori, anche con il federalismo, il rischio per gli stessi amministratori aumenta? Credo di sì. Credo di sì, perché il problema è che la criminalità ha dimostrato in passato di essere in grado di insinuarsi soprattutto con le sue presenze negli enti locali. Basterebbe vedere il numero di consigli comunali sciolti, basterebbe vedere gli interessi che la camorra, la mafia, l'andrangheta evidenziano con riferimento alle elezioni della regione, della provincia, la presenza di amministratori chiacchierati o collusi. E questa presenza rischia di essere ancora più interessata per la criminalità organizzata quando i centri di spesa si trasferiranno soprattutto sugli enti locali. Maggiore sarà la capacità di intervento nei settori degli enti locali, a maggior ragione quegli enti ingolosiranno, per utilizzare un'espressione inequivocabile. Secondo lei esiste il rischio che si possano ridurre il numero di candidati sindaci o candidati amministratori che siano, diciamo così, onesti e fermi nei loro no? Purtroppo credo di sì, e devo dirle che questa esperienza si è verificata spesso, si sta verificando spesso con riferimento soprattutto agli enti locali della provincia di Napoli e Caserta, dove purtroppo spesso le persone oneste si fanno dietro rispetto alle competizioni elettorali proprio perché non sono in grado di reggere certi urti. Questo argomento che stiamo affrontando è molto delicato, perché io credo che non si può fermare la storia. Ormai la storia va verso una maggiore, diciamo, attribuzione di poteri agli enti locali, anche il federalismo va in questi sensi, e sarebbe ingiusto rinunciare a una riforma che ormai va verso la storia perché c'è la mafia, la camorra. Il problema è quello di cercare gli antidoti prima, proprio fondando sull'esperienza precedente, cioè l'esperienza che vede le amministrazioni molto spesso colluse, troppo spesso le persone per bene che si fanno dietro, e vicende come queste, che ovviamente se fosse confermato il movente camorristico, una vicenda del genere avrebbe anche un effetto disastroso dal punto di vista, diciamo, preventivo nei confronti degli amministratori in genere. Questo sicuramente, ed era lo stesso Vassallo in una delle sue ultime interviste ad elogiare, con una provocazione lui diceva qui noi siamo leghisti, ad elogiare, diciamo, il modello del federalismo, proprio perché lui stesso si era fatto promotore di un decisionismo che in un certo senso era stata anche la carta dello sviluppo della stessa Acciaroli. Però ecco, per le amministrazioni non colluse, diciamo, per gli ambienti sani come poteva essere, come è quello del Cilento, ecco, cosa fare però per far sì che la storia, ecco, proceda così come lei stesso diceva, nella direzione tracciata che è quella del federalismo, ma allo stesso tempo si cerchi di dare una maggiore tutela a questi amministratori? Lanci, proprio dai microfoni di Radio 24, dice che avrebbe chiesto un incontro urgente con il ministro Maroni e propone una maggiore circolazione, diciamo, di informazioni tra procure, prefetture ed enti locali per capire un po' il quadro. Può essere questa una strada oppure ne altre? Devo dire che nell'ultimo periodo va dato atto, diciamo, soprattutto al ministro Maroni di essere molto attento su queste tematiche. Anche l'approvazione del testo unico, il famoso testo unico delle leggi antimafia, che ovviamente andrà attuato, è molto attento a questi problemi. Amplia gli spazi della cosiddetta stazione unica appaltante, amplia gli spazi delle certificazioni antimafia. Io credo che questo sia il problema. Sia il problema di essere molto presenti e monitorare. Noi verifichiamo che troppo spesso, diciamo, si interviene nei confronti delle collusioni delle amministrazioni comunali solo quando si verificano episodi eclatanti, cioè una sparatoria e si manda la commissione d'accesso. Invece sarebbe indispensabile tener conto sempre e operare una verifica sempre di qual è la situazione delle amministrazioni e intervenire anche con una certa durezza. In questo io devo dire che, per esempio, c'è un dato che è inequivocabile, che questa legge di riforma dello scioglimento dei consigli comunali, che era stata salutata da tutti in modo particolarmente entusiasmante, viene interpretata in questa fase in modo molto restrittivo, per cui sembrerebbe che ci sia una riduzione dello scioglimento dei consigli comunali. Io sono favorevole all'idea che soprattutto in alcune aree ci possa essere una creazione di una stazione unica appaltante che faccia sì che non siano gli enti locali a dover dare gli appalti. Ovviamente la stazione unica appaltante deve dare garanzie e deve essere organizzata in modo da dare garanzie. si deve essere però anche rigorosi da parte dei partiti. Certe persone non devono dare la possibilità di essere candidati e non basta fare le valutazioni etiche che riguardano le liste coi partiti, se poi attraverso le liste civiche, liste più o meno strane, si consente di far entrare il fratello, il cugino, il nipote, il personaggio legato alla criminalità organizzata. Situazioni di questo tipo, ovviamente soprattutto nella provincia di Napoli e Caserta, ce ne sono tantissime. Allora io credo che richiede un mix di interventi che consentano ai sindaci onesti di fare il proprio lavoro fino in fondo e consenta, diciamo, anche alle amministrazioni di non dover essere inquinate da presenze che non vanno bene. Cioè, quindi maggiore un controllo forte sugli appalti, un controllo forte sulle amministrazioni, ma anche un impegno dei partiti a che certa gente non entri proprio. Sul fronte partiti mi sembra di capire dalle sue parole che lei sollecita un'attenzione maggiore laddove forse l'attenzione anche mediatica è minore, cioè nei centri che sono apparentemente secondari rispetto alle grandi città, ma dove forse più facilmente si riesce anche ad infilare l'amico dell'amico o il parente, diciamo, che è espressione di interessi non trasparenti. È questo il problema, lei lo ha detto in termini precisi e perfetti. Il problema è che nei confronti degli enti locali minori c'è un'attenzione molto diversa. La mafia, la camorra, ha interessi spesso ad avere un assessore all'urbanistica di un piccolo comune che può essere fondamentale per uno sviluppo edilizio. Basterebbe vedere quello che è accaduto in un comune della provincia di Napoli, dove si è sviluppato un quartiere abusivo di migliaia di vani, nell'assoluta assenza di qualsivoglia controllo a 360 gradi. Parlo di Casalnuovo, ed è una realtà, diciamo, che dove persino i notai avevano fatto i roggiti, le banche avevano dato i mutui, l'Enel aveva attaccato la corrente. Allora io mi chiedo, rispetto a certe vicende, un comune come Casalnuovo è un comune che nessuno sa neanche l'esistenza, eppure lì ci possono essere interessi rilevantissimi. Allora bisogna stare molto attenti. Quanto più attribuiamo poteri, dobbiamo chiedere responsabilità e chiedere pulizia. Un'ultima riflessione le chiedo, dottor Cantone, riguarda un po' un altro elemento che sta sullo sfondo di questo delitto di Acciaroli. Si è detto che Vassallo è stato un sindaco fermo, diciamo, nel rispetto del territorio, una opposizione a tutto ciò che rappresenti un vincolo rispetto alle ambizioni della camorra, come forse casomai in questo caso poteva essere anche un piano regolatore molto severo nell'impedire nuove costruzioni. Il piano regolatore mi sembra una ragione purtroppo sufficiente, molto potrebbe essere una ragione sicuramente molto di interesse sicuro da parte di organizzazioni criminali. Potete riascoltare questa come tutte le altre puntate di Storiacce sul sito radio24.it e da lì, dalla pagina del programma, accedere anche al blog della trasmissione radio24.it/blog/calandra. Ciao, a sabato!